quando verrà la voglia di riconoscerti, l'occasione di cominciare il tuo gioco e poi quando verrà, non so se verrà, ma se verrà sarai tu il mio unico sogno. Quando verrà, partendo dagli occhi tuoi, raggiungendo nel centro i miei che ti cercano e poi, quando verrà, insieme a te, ti porterò lontano, dove non ci troveranno mai. Sarai triste tu, forse quanto lo sono io, che a cercarti mi sono perso e ora vedo la porta un po' chiusa, ma ti giuro io non faccio altro che pensare a te. Sarai triste tu, forse quanto lo sono anch'io, ti aspetterò sempre, ma adesso vorrei sentire la tua voce calda, il tuo profumo che nella mia anima, nelle mie notti interminabili senza te. Interminabili senza te.